Il giorno in cui il capitano Somers tornò a Valparaiso con il Fortuna carico di ghiaccio azzurro, trovò ad attenderlo sul molo i suoi fratelli, come sempre. Ma gli bastò osservarne le facce per capire che era successo qualcosa di molto grave. Rose era emaciata e non appena l'abbracciò iniziò a piangere irrefrenabilmente. Eliza è sparita, lo informò Jeremy, talmente adirato che a stento riusciva a pronunciare le parole. Non appena si trovarono soli, Rose raccontò a John quanto aveva saputo dalla madre di Joaquin Andieta. In quegli interminabili giorni in cui aveva atteso il fratello preferito, cercando di mettere insieme tutte le tessere del puzzle, si era convinta che la ragazza avesse seguito il suo amante in California, perché lei sicuramente avrebbe fatto la stessa cosa. John Somers passò il giorno successivo a fare indagini al porto e così venne a sapere che Eliza non aveva acquistato un biglietto in nessuna imbarcazione, figurava nelle liste dei viaggiatori, mentre invece le autorità avevano registrato un tal Joaquin Andieta imbarcatosi in dicembre. Ipotizzò che la ragazza avesse usato un altro nome per depistarli e rifece lo stesso percorso fornendo di lei una descrizione dettagliata, ma nessuno l'aveva vista. Una ragazza, quasi una bambina, che viaggiava da sola o semplicemente accompagnata da un'india avrebbe sicuramente richiamato l'attenzione, gli assicurarono. Inoltre erano assai poche le donne che andavano a San Francisco, solamente quelle dalla vita spensierata e talvolta la moglie di un capitano o di un commerciante. Non può essersi imbarcata senza lasciare tracce, Rose, concluse il capitano dopo averle riferito minuziosamente le sue ricerche. E Andieta? Sua madre non ti ha mentito, il suo nome figura in una lista. Si era appropriato di alcune merci della compagnia. Sono certa che l'abbia fatto solo perché non aveva altro modo per finanziarsi il viaggio. Jeremy non sospetta che il ladro che sta cercando sia l'amante di Eliza e spero che non lo venga mai a sapere. Non sei stanca di tanti segreti, Rose? E cosa vuoi che faccia? La mia vita è fatta di apparenze, non di verità. Jeremy è fatto di pietra, lo conosci quanto me. Cosa facciamo per la bambina? Domani partirò per la California. Il vapore è già carico. Se è vero che là le donne sono poche come dicono, sarà facile trovarla. Ma non è sufficiente, John. Hai qualche idea migliore? Quella sera, durante la cena, Miss Rose insistette ancora una volta sulla necessità di ricorrere a tutti i mezzi a disposizione per ritrovare la ragazza. Jeremy, che si era mantenuto al margine della frenetica attività della sorella, senza offrire un consiglio né esprimere un qualsiasi sentimento, salvo il fastidio per essere oggetto di uno scandalo sociale, dichiarò che Eliza non meritava tutto quel chiasso. Questa atmosfera isterica è davvero molto sgradevole. Vi suggerisco di calmarvi. Perché la cercate? Anche se la troverete, non tornerà a metter piede in questa casa, annunciò. Eliza non significa niente per te, lo redarguì Miss Rose. Non è questo il punto. Ha commesso un errore imperdonabile. Deve pagarne le conseguenze. Come le ho pagate io per quasi 20 anni? Un gelido silenzio cadde nella sala da pranzo. Non avevano mai parlato apertamente del passato e Jeremy non sapeva neanche se John fosse al corrente di quanto era successo tra la sorella e il tenore viennese, perché lui si era ben guardato da riferirglielo. Quali conseguenze, Rose? Ti perdonai e ti accolsi di nuovo, non hai niente da rimproverarmi. E perché, se sei stato così generoso con me, non puoi esserlo anche per Eliza? Perché sei mia sorella e proteggerti è un mio dovere. Eliza è come se fosse mia figlia, Jeremy. Ma non lo è, non abbiamo alcun obbligo nei suoi confronti, non fa parte di questa famiglia. Sì che ne fa parte, gridò Miss Rose. Basta! L'interruppe il capitano, sferrando sul tavolo un pugno che fece ballare piatti e bicchieri. Sì che ne fa parte, Jeremy. Eliza appartiene alla nostra famiglia, ripeté Miss Rose, singhiozzando con il viso tra le mani. È figlia di John. Jeremy ascoltò allora dai fratelli la rivelazione di un segreto che avevano tenuto nascosto per 16 anni. Quell'uomo di poche parole, così controllato da sembrare invulnerabile alle umane emozioni, per la prima volta esplose e tutto quello che aveva taciuto in 46 anni di impeccabile flemma britannica sgorgò a fiotti, affogandolo in un torrente di rimproveri, di rabbia e umiliazioni, perché guarda che razza di scemo sono stato. Dio mio, ho vissuto sotto lo stesso tetto, in un covo di bugie, senza avere sospetti, convinto che i miei fratelli fossero persone per bene e che tra noi regnasse la fiducia, mentre invece ci lega una consuetudine alle menzogne, un'abitudine alla falsità. Chissà quante cose mi avete sistematicamente tenuto nascoste, ma questo è il colmo. Perché diavolo non me lo rivelaste? Cosa ho fatto per essere trattato come un mostro, per meritarmi di essere manipolato a questo modo? Mi merito forse che sfruttiate la mia generosità e che contemporaneamente mi disprezziate? Perché non si può chiamare in altro modo se non disprezzo questo modo di coinvolgermi nelle bugie per poi escludermi. Avete bisogno di me solo per pagare i conti? È stato così per tutta la vita, da quando eravamo piccoli. Vi siete sempre presi gioco di me. Ammutoliti, senza trovare la maniera di giustificarsi, Rose e John sopportarono la lavata di testa e quando il fratello maggiore ebbe concluso la geremiade, nella sala da pranzo regnò un lungo silenzio. Tutti e tre erano esausti. Per la prima volta nella loro vita si erano confrontati privi della maschera delle buone maniere e della cortesia. Qualcosa di fondamentale che li aveva sostenuti nel fragile equilibrio di un tavolo a tre gambe sembrava irrimediabilmente rotto. Tuttavia, a mano che Jeremy riprendeva fiato mentre si sistemava una ciocca caduta sulla fronte e la cravatta spiegazzata, i suoi lineamenti tornavano all'espressione impenetrabile e arrogante di sempre. Allora Miss Rose si alzò in piedi, gli si avvicinò da dietro la sedia e gli mise una mano sulla spalla, l'unico gesto di intimità che osò fare, con il petto che le doleva di tenerezza per quel fratello solitario, quell'uomo silenzioso e malinconico che le aveva fatto da padre e che non si era mai data la pena di guardare negli occhi. Si rese conto che non sapeva proprio niente di lui e che in tutta la sua vita non l'aveva mai toccato. 17 anni prima, la mattina del 15 marzo 1832, mamma Fresia era uscita in giardino ed era inciampata in una scatola ordinaria di sapone di Marsiglia coperta da un foglio di giornale. Incuriosita si era avvicinata per vedere di cosa si trattasse e sollevando la carta aveva scoperto una neonata. Era corsa in casa gridando e un attimo dopo Miss Rose era china sul bebè. Allora aveva 20 anni, era fresca e bella come una pesca, indossava un abito color topazio e il vento le scompigliava i capelli sciolti, esattamente come Liza ricordava o immaginava. Le due donne avevano sollevato la scatola e l'avevano portata nella stanza del cucito, dove avevano tolto i giornali per tirar fuori la bambina, avvolta alla belle meglio in un panciotto di lana. Non doveva essere rimasta alle intemperie per molto tempo, avevano dedotto, perché nonostante il ventaccio mattutino, il corpo era tiepido e lei dormiva placidamente. Miss Rose aveva ordinato all'India di andare a cercare una coperta pulita, lenzuola e forbici per improvvisare dei pannolini. Quando mamma Fresi era tornata, il panciotto era sparito e il bebè nudo strillava tra le braccia di Miss Rose. Riconobbi immediatamente il panciotto, l'avevo fatto io per John l'anno prima. Lo nascosi perché anche tu l'avresti riconosciuto, spiegò a Jeremy. Chi è la madre di Eliza, John? Non ricordo il nome. Non sai come si chiama? Quanti bastardi pensi di aver seminato per il mondo? Esclamò Jeremy. Oh, era una ragazza del porto, una cilena, ricordo che era molto carina. Non la rividi mai più e non venni mai a sapere che era incinta. Quando Rose mi mostrò il panciotto un paio d'anni dopo mi venne in mente che l'avevo messo addosso a quella ragazza sulla spiaggia perché faceva freddo e poi mi ero dimenticato di chiederglielo. Devi capirmi, Jeremy, la vita dei marinai è così, non sono una bestia. Eri ubriaco. Può darsi. Quando capii che Liza era mia figlia cercai di rintracciare la madre, ma era scomparsa, forse era morta, non lo so. Per qualche motivo la madre decise che noi avremmo dovuto allevare la bambina a Jeremy e non mi sono mai pentita di averlo fatto. Le abbiamo dato affetto, una vita serena, educazione. Forse sua madre non poteva darle niente, per questo portò Eliza avvolta nel panciotto perché sapessimo chi era il padre, aggiunse Miss Rose. Tutto qui? Uno schifoso panciotto? Questo non prova assolutamente niente. Chiunque può essere il padre. Quella donna si è disfatta della creatura con molta astuzia. Avevo paura che avresti reagito così, Jeremy, ed è per questo che a suo tempo non te ne parlai, replicò sua sorella. 3 settimane dopo essersi congedata da Tao Qian, Eliza si trovava con 5 minatori a lavare l'oro sulle sponde dell'American River. Non aveva viaggiato da sola. Il giorno della sua partenza da Sacramento si era unita a un gruppo di cileni diretti ai giacimenti. Aveva comprato delle cavalcature, ma nessuno si intendeva di animali e i ranchero messicani avevano mascherato abilmente l'età e i difetti dei cavalli e dei muli. Erano bestie patetiche, con le spellature dissimulate dalla vernice e drogate, che, perso lo slancio dopo poche ore di marcia, si trascinavano zoppicando. Ogni cavaliere portava con sé un carico di attrezzi, armi e contenitori di latta, cosicché la triste comitiva avanzava a passo lento in mezzo a un frastuono metallico. Strada facendo, si disfacevano del bagaglio che rimaneva sparso vicino alle croci che punteggiavano il paesaggio a indicare i defunti. Eliza si presentò con il nome di Elia Sandieta. Era appena giunto dal Cile su incarico della madre per cercare il fratello Joaquin ed era disposto a passare al setaccio l'intera California pur di adempiere alla consegna. «Quanti anni hai, moccioso?» le chiesero. 18. Boh, ne dimostri 14. Non sei un po' giovane per cercare l'oro? Ne ho 18 e non cerco oro, ma mio fratello Joaquin, ripeté. I cileni erano giovani, allegri, e l'entusiasmo che li aveva spinti ad abbandonare la loro terra era ancora vivo. Per quanto iniziassero ad accorgersi che le strade non erano lastricate di tesori, come avevano raccontato loro. All'inizio Eliza non mostrò mai il viso, tenendo sempre il cappello sugli occhi, ma ben presto si accorse che gli uomini non si guardavano molto tra loro. Presero per vero che si trattava di un ragazzo e non furono stupiti dalla forma del suo corpo, dalla sua voce o dai suoi modi. Ognuno, talmente preso dai fatti suoi, non notarono che non orinava con loro e che quando incrociavano una pozza d'acqua in cui rinfrescarsi, mentre loro si denudavano, lei si buttava vestite con il cappello in testa, sostenendo che così ne approfittava per lavare contemporaneamente i vestiti. D'altra parte, sull'igiene si poteva anche passare sopra e dopo pochi giorni Eliza era sporca e sudata quanto i suoi compagni. Scoprì che il sudiciume accomuna tutti nella medesima abiezione. Il suo naso da segugio distingueva a malapena l'odore del proprio corpo da quello degli altri. La tela spessa dei pantaloni le grattava le gambe, non era abituata a cavalcare per lunghi tratti e il secondo giorno le natiche scorticate le consentivano a stento di camminare. Ma anche gli altri erano gente di città ed erano afflitti quanto lei. Il clima secco e caldo, la sete, la fatica e il perpetuo assalto delle zanzare ben presto li privarono della voglia di far baldoria. Procedevano in silenzio con lo strimpellio delle loro cianfrusaglie, pentiti ancor prima di essersi dedicati all'impresa. Cercarono per settimane un luogo propizio in cui stabilirsi per cercare l'oro, tempo che Eliza sfruttò per la sua ricerca di Joaquin Andieta. Né gli indizi raccolti, né le cartine mal disegnate servivano a molto, e quando raggiungevano un buon punto per il lavaggio dell'oro, vi ritrovavano centinaia di minatori giunti prima di loro. Ognuno aveva diritto a reclamare per sé 100 piedi quadrati, marchiava il posto lavorandoci giornalmente e lasciandoci gli strumenti quando si assentava, ma se si allontanava per più di 10 giorni, altri potevano occuparlo e registrarlo a loro nome. I peggiori crimini, invadere un ettaro altrui prima della scadenza e rubare, si pagavano con la forca o a frustate, dopo un sommario processo nel quale i minatori facevano da giudici, giuria e boia. Ovunque incrociavano gruppi di cileni, si riconoscevano dall'abbigliamento e dall'accento, si abbracciavano entusiasti, condividevano il mate, l'acquavite, il charqui, si raccontavano a tinte forti le reciproche disavventure, cantavano canzoni nostalgiche sotto le stelle e il giorno dopo si separavano frettolosamente, senza dimostrazioni di grande affetto. Dall'accento da damerini e dalle conversazioni, Eliza dedusse che alcuni erano signorini di Santiago, figurini azzimati in mezzo aristocratici, che pochi mesi prima usavano la finanziera, scarpe di vernice, guanti di capretto e avevano i capelli imbrillantinati, ma che nei giacimenti era quasi impossibile distinguere dai più rustici zoticoni con i quali lavoravano gomito a gomito. Le smancerie e i pregiudizi di classe andavano in fumo a contatto con la brutale realtà delle miniere, ma per l'odio razziale non era così e al minimo pretesto scoppiava qualche rissa. I cileni, più numerosi e intraprendenti di altri ispanici, si attiravano l'odio dei gringo. Eliza venne a sapere che a San Francisco un gruppo di australiani ubriachi aveva attaccato Chilecito scatenando una battaglia campale. Nei giacimenti erano all'opera diverse compagnie cilene che si erano portate i lavoratori dai campi, coloni che per generazioni avevano vissuto in un regime feudale e che lavoravano per uno stipendio infimo senza stupirsi che l'oro non fosse di chi lo trovava ma del padrone. Agli occhi degli Yankee questo sistema era semplicemente schiavista. Le leggi americane intendevano favorire i singoli, ogni proprietà era ridotta allo spazio che un uomo da solo riusciva a sfruttare. E le compagnie cilene gabbavano la norma registrando i diritti a nome di ognuno dei lavoranti per acquisire più terre. C'erano bianchi di diverse nazionalità, con camicie di flanella, pantaloni negli stivali e coppie di revolver, cinesi con le loro giacchette trapuntate e gli ampi calzoni, indiani con inconsistenti giacche militari e il posteriore all'aria, messicani vestiti in cotone bianco con enormi cappelli, sudamericani con poncho corti e grossi cinturoni di cuoio in cui riponevano coltello, tabacco, polvere da sparo e denaro. Viaggiatori delle isole Sandwich, a piedi nudi e con fasce di seta brillanti. Una mescolanza di colori, culture, religioni e lingue con un'ossessione comune. A ognuno di loro Eliza domandava di Joaquin Andieta e chiedeva di far girare la voce che suo fratello Elias lo stava cercando. Addentrandosi sempre di più in quel territorio, si rendeva conto di quanto fosse esterminato e di quanto difficile sarebbe stato ritrovare l'amante in mezzo ai 50.000 forestieri che brulicavano ovunque. Il gruppo di cileni esausti alla fine decise di fermarsi. Erano giunti alla valle dell'American River sotto un caldo infernale solamente con due muli e con il cavallo di Eliza, perché gli altri animali avevano capitolato strada facendo. La terra era secca e screpolata, senza altra vegetazione che pini e roveri, ma un limpido fiume torrentizio scendeva dalle montagne saltando sulle pietre, trafiggendo la valle come un coltello. Sulle rive c'erano file e file di uomini intenti a scavare e a riempire i secchi con la terra fine che poi setacciavano grazie a un dispositivo simile alla culla di un neonato. Lavoravano con la testa al sole, le gambe nell'acqua gelida e i vestiti zuppi. Dormivano sdraiati per terra senza abbandonare le armi, mangiavano pane raffermo e carne salata, bevevano acqua inquinata dalle centinaia di scavi a monte e liquore talmente adulterato che molti si ritrovavano il fegato distrutto o impazzivano. Quando Eliza vide morire due uomini nel giro di pochi giorni, in preda alle convulsioni provocate dal dolore e ricoperti dal sudore schiumoso del colera, fu riconoscente alla saggezza di Tao Chien che le aveva raccomandato di non bere acqua che non fosse stata bollita. Per quanto insopportabile fosse la sete, lei aspettava fino a sera quando si accampavano per preparare tè o mate. Di tanto in tanto si udivano grida di giubilo, qualcuno aveva trovato una pepita d'oro, ma la maggioranza si accontentava di separare qualche grammo prezioso da tonnellate di terra inutile. Mesi prima si potevano ancora vedere le scaglie brillare nell'acqua limpida, ma ora la natura era stata sconvolta dalla cupidigia umana. Il paesaggio alterato da cumuli di terra e pietre, buche enormi, fiumi e ruscelli deviati dai loro corsi, e acqua distribuita in innumerevoli pozzanghere, migliaia di tronchi sradicati laddove prima prosperavano boschi. Per arrivare al metallo ci voleva una determinazione da titani. Eliza non aveva intenzione di fermarsi, ma si sentiva a pezzi e non riusciva a pensare di proseguire a cavallo da sola alla deriva. I suoi compagni occuparono un appezzamento in fondo alla fila di minatori, piuttosto lontano dal piccolo villaggio che iniziava a sorgere in quel luogo, con la sua taverna e il suo emporio per soddisfare le necessità primarie. I loro tre vicini, originari dell'Oregon, che lavoravano e ingurgitavano alcol con una resistenza fuori dal comune, non persero tempo nei saluti ai nuovi arrivati. Al contrario, fecero loro immediatamente sapere che non riconoscevano il diritto ai Greasers di sfruttare il suolo americano. Uno dei cileni ribatté, sostenendo che nemmeno loro avevano questo diritto, che la terra era degli indiani e se altre persone non fossero intervenute a placare gli animi, sarebbe scoppiata una rissa. In sottofondo si sentiva un baccano continuo di pale, picconi, acqua, pietre che rotolavano e maledizioni, ma il cielo era limpido e l'aria sapeva di foglie d'alloro. I cileni si lasciarono cadere a terra morti dalla fatica e il presunto Elias Ndieta accese un piccolo falò per preparare il caffè e diede da bere al cavallo. Impietosita fece lo stesso con i poveri muli, anche se non erano suoi, e scaricò i bagagli affinché potessero riposare. La spossatezza le annebbiava la vista e a stento riusciva a dominare il tremito delle ginocchia. Capì che Tao Chien aveva ragione quando l'aveva avvertita della necessità di rimettersi in forze prima di lanciarsi in una simile avventura. Pensò alla casetta di assi e stoffa a Sacramento, dove a quell'ora probabilmente lui stava meditando o scrivendo con un pennino e inchiostro di china nella sua bella calligrafia. Sorrise, meravigliata nel constatare come la nostalgia non evocasse la tranquilla stanza del cucito di Miss Rose o la tiepida cucina di Mamma Fresia. Come sono cambiata, sospirò, guardandosi le mani bruciate dal sole inclemente e piene di vesciche. Un giorno i suoi compagni la mandarono all'emporio a comprare i prodotti indispensabili per la sopravvivenza e una di quelle culle per setacciare la terra, marchingegno che si rivelava ben più efficace dei loro modesti trogoli. L'unica strada del paese, se così si poteva chiamare quel gruppo di case, era una fangaia disseminata di rifiuti. L'emporio, una capanna di tronchi e assi, era il centro della vita sociale per quella comunità di uomini soli. Lì si vendeva un po' di tutto, si serviva liquore e qualcosa da mangiare. Di notte, quando i minatori andavano a bere, un violinista rallegrava l'ambiente con i suoi pezzi e allora qualcuno appendeva un fazzoletto alla cintura, segno che assumeva il ruolo della dama, e gli altri si disponevano a fare dei turni per farlo ballare. Non c'era una sola donna nel raggio di parecchie miglia, ma di tanto in tanto passava un carro trainato da muli carico di prostitute. Le attendevano con ansia e le ricompensavano con generosità. Il proprietario dell'emporio risultò essere un mormone loquace e di buon cuore, con tre mogli nello Utah che faceva credito a chi si convertiva alla sua fede. Era astemio e mentre vendeva l'alcol predicava contro il vizio di berlo. Aveva conosciuto un certo Joaquin e il cognome gli sembrava simile ad Andietta, raccontò a Eliza quando lei lo interrogò, ma era passato di lì parecchio tempo prima e non sapeva dirle che direzione avesse poi preso. Lo ricordava perché era stato invischiato in una rissa tra americani e spagnoli a proposito di un ettaro. Cileni? Forse. Di certo parlava castigliano. Poteva anche essere messicano, disse. A lui tutti i greaser sembravano uguali. E come andò a finire? Gli americani si tennero la proprietà e gli altri dovettero andarsene. Come poteva andare a finire? Joaquin e un altro uomo rimasero qui nell'emporio 2 o 3 giorni. Misi una coperta lì in un angolo e li lasciai riposare fino a che non si furono rimessi un po' perché ne avevano prese parecchie. Non erano cattive persone. Mi ricordo di tuo fratello, un ragazzo dai capelli neri e dagli occhi grandi, piuttosto bello. Proprio lui, disse Liza con il cuore che batteva al galoppo. Terza parte, 1850-1853. Eldorado. Durante i mesi dell'estate dell'autunno 1849, Eliza cavalcò lungo la vetta madre, da sud a nord, da Mariposa a Downieville e poi a ritroso, seguendo la pista sempre più incerta di Joaquin Andieta, per dirupi scoscesi, dai letti dei fiumi alle falde della Sierra Nevada. Quando chiedeva di lui, all'inizio pochi ricordavano una persona il cui nome o la descrizione corrispondesse, ma verso la fine dell'anno la sua figura iniziò ad acquisire contorni reali ed era questo a dare alla ragazza la forza per proseguire. Aveva fatto girare la voce che il fratello Elias lo stava cercando e in quei mesi più di una volta l'eco le aveva restituito la sua stessa voce. In diverse occasioni, quando chiedeva di Joaquin, veniva identificata come il fratello ancor prima di presentarsi. In quella regione selvaggia, la posta arrivava da San Francisco con mesi di ritardo, i giornali ci impiegavano settimane, ma il tantam funzionava perfettamente. Com'era possibile che Joaquin non avesse sentito dire che lo stavano cercando, visto che non aveva fratelli? Si doveva pure essere domandato chi fosse tal Elias, e se possedeva un briciolo d'intuito poteva associare quel nome al suo, e anche se non aveva sospetti, perlomeno doveva avere la curiosità di scoprire chi si stesse spacciando per suo parente. Di notte Eliza riusciva a dormire a malapena, confusa dal ginepraio di congetture e con il dubbio ostinato che il silenzio potesse spiegarsi semplicemente con la morte o con il desiderio di non essere trovato. E se davvero stava fuggendo da lei, come aveva insinuato Tao Qian, passava le giornate a cavallo e le notti sdraiata a terra, nel primo posto che le capitava, al riparo della sua coperta castigliana e con gli stivali per cuscino, senza spogliarsi. La sporcizia e il sudore avevano smesso di infastidirla, mangiava quando era possibile, le uniche precauzioni adottate erano far bollire l'acqua da bere e non guardare il gringo negli occhi. In quel periodo si contavano già più di 100.000 argonauti e continuavano ad arrivarne altri disseminati lungo la vetta madre che capovolgevano il mondo spostando montagne, deviando fiumi, distruggendo boschi, polverizzando pietre, rimuovendo tonnellate di sabbia e scavando buche gigantesche. Nelle zone in cui c'era oro, quel paesaggio idilliaco che era rimasto intatto dall'inizio dei tempi si era trasformato in un incubo lunare. Eliza era perennemente stravolta, ma aveva recuperato un po' di forze e perduto la paura. Le tornarono le mestruazioni nel momento meno opportuno perché era difficile dissimularle in compagnia di uomini, ma le accolse con gratitudine come segno del fatto che finalmente il suo corpo era guarito. «I tuoi aghi mi hanno fatto bene, Tao. Spero di avere dei figli in futuro», scrisse all'amico, certa che non avrebbe avuto bisogno di altre spiegazioni per capire. Non si separava mai dalle sue armi benché non le sapesse usare e sperasse di non trovarsi in condizioni di doverci provare. Solo una volta sparò in aria per mettere in fuga dei giovani indiani che si erano avvicinati troppo e che le erano parsi minacciosi, ma se si fosse battuta con loro ne sarebbe uscita molto male, dato che era incapace di colpire un asino a 5 metri di distanza. Non aveva perfezionato la mira, bensì l'arte di rendersi invisibile. Poteva entrare nei paesi senza richiamare l'attenzione, mescolandosi ai gruppi di latini in cui un ragazzo col suo aspetto passava inosservato. Aveva imparato a imitare perfettamente l'accento peruviano e quello messicano e così poteva confondersi con uno di loro quando cercava alloggio. Modificò anche il suo inglese britannico in favore dell'americano e iniziò a impiegare le parolacce indispensabili per essere accettata tra i gringo. Si rendeva conto che parlando come loro veniva rispettata. L'importante era non dare spiegazioni, parlare il meno possibile, non chiedere niente, lavorare per badare a sé, tener testa quando veniva provocata e aggrapparsi a una piccola Bibbia che aveva comprata a Sonora. Anche i più violenti provavano una superstiziosa deferenza per quel libro. Li stupiva quel ragazzo imberbe dalla voce femminile che di sera leggeva le sacre scritture, ma non la canzonavano apertamente. Anzi, alcuni si trasformavano in suoi protettori, pronti a battersi con chiunque la dileggiasse. In quegli uomini soli e spietati che erano partiti in cerca di fortuna come i mitici eroi dell'antica Grecia e che ora si trovavano a dover lottare per la sopravvivenza, spesso malati, dediti all'alcol e alla violenza, c'era un inconfessato anelito alla tenerezza e all'ordine. Le canzoni romantiche inumidivano loro gli occhi ed erano disposti a pagare qualsiasi cifra per una fetta di torta di mele che offrisse loro un attimo di conforto contro la nostalgia del focolare. Facevano lunghi giri pur di avvicinarsi a una casa in cui ci fosse un bimbo e rimanevano poi a contemplarlo in silenzio, come se si trattasse di un miracolo. «Non temere, Tao, non viaggio da sola, sarebbe una follia», scriveva Eliza all'amico. «Bisogna muoversi in gruppi numerosi, ben armati e sempre allerta, perché negli ultimi tempi le bande di fuorilegge si sono moltiplicate. Nonostante il loro terrificante aspetto, gli indiani sono piuttosto pacifici, ma se vedono un uomo indifeso lo privano delle sue più ambite proprietà, cavalli, armi, stivali. Mi sposto insieme ad altri viaggiatori, commercianti che vanno da un paese all'altro con i loro prodotti, minatori in cerca di nuovi filoni, famiglie di agricoltori, cacciatori, imprenditori e agenti di proprietà che iniziano a invadere la California, giocatori, pistoleri, avvocati e altre canaglie che in linea di massima sono i compagni di viaggio più divertenti e generosi. Da queste parti girano anche predicatori, sono sempre giovani e sembrano matti illuminati. Bisogna averne parecchia di fede per percorrere 3.000 miglia attraverso praterie vergini allo scopo di combattere i vizi altrui. Partono dalle loro case animati da zelo e passione, intenzionati a portare la parola di Cristo in quei luoghi così fuori mano, senza preoccuparsi degli ostacoli e delle avversità, perché Dio marcia al loro fianco. Chiamano i minatori gli adoratori del vitello d'oro. Devi leggere la Bibbia, Tao, altrimenti non capirai mai i cristiani. Questi pastori non vengono mai sconfitti dalle vicissitudini materiali, ma molti soccombono con l'anima a pezzi, impotenti davanti alla forza soggiogante della cupidigia. È di conforto vederli non appena arrivano, ancora innocenti, ed è triste incrociarli quando Dio ha smesso di proteggerli e viaggiano con anime in pena da un accampamento all'altro, assetati e con un sole implacabile sulla testa, per predicare in piazze e taverne davanti a un pubblico indifferente che li ascolta senza togliersi il cappello e vederli poi, 5 minuti dopo, ubriacarsi con qualche donnetta. Ho conosciuto un gruppo di artisti itineranti, Tao, poveri diavoli, che si fermavano nei paesi per intrattenere la gente con pantomime, canzoni piccanti e commedie grossolane. Ho viaggiato con loro per diverse settimane e ho fatto parte dello spettacolo. Se trovavano un piano, suonavo, altrimenti facevo la parte della dama giovane e tutti si meravigliavano di quanto mi fossero congeniali i ruoli femminili. Dovetti abbandonarli perché la situazione iniziava a mandarmi in confusione. Non sapevo più se era una donna vestita da uomo, un uomo vestito da donna o un'aberrazione della natura. Eliza fece amicizia con il postino e quando poteva cavalcava con lui perché viaggiava velocemente e aveva molti contatti. Se c'è qualcuno che può trovare Joaquin, è lui, pensava. L'uomo portava la posta ai minatori e tornava con le borse d'oro da depositare nelle banche. Era uno dei molti visionari arricchitisi con la febbre dell'oro senza aver mai preso in mano una pala o un piccone. Chiedeva $2,50 per portare una lettera a San Francisco e, approfittando dell'ansia dei minatori di ricevere notizie da casa, riscuoteva un'oncia d'oro per la consegna delle lettere a loro indirizzate. Guadagnava un patrimonio con questa attività. I clienti non mancavano e nessuno protestava per i prezzi, dato che di alternative non ce n'erano. Non potevano abbandonare le miniere per andare a caccia di corrispondenza o depositare i guadagni a 100 miglia di distanza. Eliza cercava anche la compagnia di Charlie, un ometto pieno di storie che faceva la concorrenza ai mulattieri messicani nel trasporto di merci. Anche se non temeva nemmeno il diavolo in persona, era sempre felice di avere una scorta, perché aveva bisogno di orecchie per i suoi racconti. Quanto più lo osservava, tanto più cresceva in Eliza la certezza che, come per lei, si trattasse di una donna vestita da uomo. Charlie aveva la pelle indurita dal sole, masticava tabacco, imprecava come un bandito e non si separava mai dalle sue pistole e dai suoi guanti, ma una volta Eliza riuscì a vedere le sue mani ed erano piccole e bianche come quelle di una fanciulla.